do mare. Sei qua, amo. Tutto finisce così, si riparte da qui, ma c'è un brivido in più. Sei qua, amo. Avevamo la concorrenza un po' sleale della partita e purtroppo ci hanno menato, però ci hanno menato come romanisti, come Roma. So che alcuni stanno tentando di raggiungere lo stadio, l'auditorium dallo stadio, dove sarebbero dovuti venire prima invece di andare là, ma insomma siamo qua e ci divertiamo. Wow! E sono straordinari aver